Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buonasera a tutti voi in contatto con il soundcheck, la prova del suono di Radio 24 da Gegè Telesforo. Grazie a tutti per le numerosissime email che raggiungono il nostro indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it e anticipo ancora una volta che troverete tutti i brani in airplay quest'oggi pubblicati nelle pagine del sito groovemasteredition.it. Nella seconda parte dell'appuntamento di oggi, subito dopo le notizie delle 20, avremo come ospite l'architetto Mario Ciampà, che nella vita, più che fare disegni e progetti, si diverte ormai da 30 anni a organizzare grandi eventi di musica e quindi anche quest'anno è il direttore artistico del Roma Jazz Festival, che si terrà qui a Roma all'Auditorium Parco della Musica a partire dalla seconda settimana di novembre, ma ne parleremo con lui nella seconda parte di oggi. Diamo il via invece al soundcheck proponendovi il suono creato da Prince per questi due nuovi album. Quindi il signor Prince il 30 settembre non ha pubblicato un album doppio ma due produzioni separate, tornando a collaborare con la Warner Bros. In Warner Bros. Sono felicissimi di avere nuovamente Prince come cavallo portante della loro casa discografica, e il signor Prince quindi realizza due album molto diversi fra di loro. Un album intitolato Plectrum Electrum, con il suono molto rock, dove si diverte con la sua chitarra a sostenere il lavoro in studio di registrazione di un trio tutto al femminile chiamato Third Eye Girl, un trio composto dalla chitarrista Donna Grantis, Anna Ford Welton alla batteria e dalla bravissima Ida Nielsen al basso elettrico. Quindi diamo il via all'ascolto di Stop This Train, brano tratto proprio da Plectrum Electrum, per il signor Prince qui al soundcheck di Radio 24. Behind the sky, rock and roll forever and never die. Used to never need a reason to fly. Now I see that you're the only reason to try. Don't matter who's right or wrong. I never wanna be the one singing this song that hurts this bad baton. I'm gonna stop this train and never get back on. Never get back on. Never get back on. E questo è il suono di Prince realizzato con le Third Eye Girl per l'album Plectrum Electrum, con il brano Stop This Train. Dicevamo che Prince quindi il 30 settembre ha pubblicato due nuove produzioni. Quella che personalmente preferisco è Artificial Age, che riporta Prince in studio di registrazione costringendo i suoi ingegneri del suono a dei turni massacranti, addirittura di 24 ore, perché quando il genio di Minneapolis è preso dal suo istinto creativo non può essere fermato, e quindi ha realizzato, un po' come faceva da ragazzo con i primi album della metà degli anni 70, I Wanna Be Your Lover, dove registrava tutto da solo, fa lo stesso anche in questo nuovo album intitolato Artificial Age. E il brano che vi faccio ascoltare è bellissimo, ci riporta indietro nel tempo ma con le nuove sonorità create da questo grandissimo musicista di Minneapolis. Prince qui al soundcheck di Radio 24, da Artificial Age, il brano si intitola Time. I think it's about time that I got time alone with you. Soundcheck. Il suono della musica. E oggi stiamo presentando i due nuovi album del signor Prince pubblicati a fine settembre e oramai sono arrivati anche da noi in Italia, e quindi oggi diamo spazio in questa prima parte del nostro soundcheck al suono di questo meraviglioso musicista. Tra l'altro due album che segnano lo storico ritorno di Prince alla Warner Bros., casa discografica originale di Prince, e la cui rinnovata collaborazione si è cementata dopo l'annuncio che la Warner Bros. Aveva restituito all'artista i master delle registrazioni dei suoi album pioneristici dagli anni 80, tra cui Dirty Mind 1999, Purple Rain e Sign of the Times. Il CEO e presidente della Warner Bros., Cameron Strang, ha dichiarato che Prince è uno dei pochissimi artisti visionari che hanno davvero ridefinito e dato nuova forma alla musica e alla cultura moderna. Negli ultimi 35 anni non ha mai smesso di evolversi, mettendosi alla prova, reinventando il suo sound e spingendosi oltre i limiti. Come solo Prince poteva fare, ci ha appena dato non uno ma due album straordinari che esprimono l'incredibile spettro e profondità del suo talento. Prince al soundcheck di Radio 24 da Art Official Age con Clouds. La bellissima Clouds di Prince al soundcheck di Radio 24 da uno dei due nuovi album, esattamente Art Official Age, e chiudiamo la presentazione di queste due nuovissime produzioni per il genio di Minneapolis ascoltando un altro brano tratto invece da Plectrum Electrum, che è il disco registrato insieme, come dicevamo, alle Third Eye Girl, che è la band di supporto degli ultimi anni, composta da tre meravigliose ragazze, bravissime musiciste, dicevamo Donna Grantis alla chitarra, Anna Ford Welton alla batteria e Ida Nielsen al basso elettrico. Un album registrato dal vivo e in analogico, album con una resa senz'altro più funk e rock, una sorta di testamento contemporaneo che da quasi un anno e mezzo riempie di speranze gli amanti delle creazioni del musicista americano. Il funk e il rock di Prince con le Third Eye Girl qui al soundcheck di Radio 24 con il brano manifesto di Plectrum Electrum, ovvero Funk and Roll, Prince al soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Il suono, la voce, l'energia di Tuomo Prattala, sì, musicista non molto conosciuto da noi, va in giro solo con il nome di Tuomo, e Tuomo è un eccellente pianista, compositore e cantante famosissimo in Finlandia, dove ha vinto diversi premi anche perché è un ottimo musicista di jazz. Questo brano è tratto dal nuovo album, si intitola Keep Looking Up, l'album è The New Mystic, che io vi raccomando perché è molto interessante. E ormai siamo quasi pronti per piacere accogliere nel nostro Groove Master Studio il maestro Mario Ciampà, architetto appassionato di musica, direttore artistico anche della nuova edizione del Roma Jazz Festival che si terrà all'Auditorium Parco della Musica a partire dalla seconda settimana di novembre. Parleremo con lui delle difficoltà di realizzare oggi in una grande città un festival di jazz così importante. Parleremo di musica, parleremo di jazz e annunceremo tutto il cartellone dei grandi artisti presenti al Roma Jazz Festival a partire da novembre. Allora, intanto vi lascio con il suono di Give Me Your Hands, una composizione scritta insieme al mio amico Dario De Ida, uno dei più acclamati bassisti elettrici contemporanei, forse in questo momento è considerato il migliore. Pensate che Marcus Miller è uno dei suoi fan, pensate un po'. Allora, Dario De Ida, protagonista qui al Soundcheck con Give Me Your Hands, ci risentiamo subito dopo l'informazione di Radio 24 con La Prova del Suono. Soundcheck. Il suono della musica. E come annunciato al Soundcheck di Radio 24, arriva freschissimo e carico di note il direttore artistico del Roma Jazz Festival, 38esima edizione che sta per iniziare, praticamente manca poco meno di un mese, e l'architetto Mario Ciampà è pronto a guidare ancora una volta una baracca, fra virgolette, piena di artisti e di talento. Quindi buonasera Mario Ciampà. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a te Mario per essere venuto qui nel Groove Master Studio per raccontarci un po' che cosa succederà in questa nuova edizione del Roma Jazz Festival, che ha un obiettivo, quello di riportare il sorriso un po' come successe con lo swing intorno al 1929 lì a New York City, lì negli Stati Uniti. Dopo la grande crisi, la musica sembrava l'unico modo per poter salvare l'umore. Sì, è così, ma c'è un parallelismo, secondo me, storico tra la crisi del 29, la crisi che stiamo subendo adesso, e diciamo che lo swing è la speranza per un futuro diverso e anche per superare questi momenti così duri con un sorriso. E infatti qui il comunicato stampa redatto dal Roma Jazz Festival dice che lo swing ha scandito le danze di una società messa alla prova dalle crisi economiche, accompagnando sempre con una sottile vena malinconica i momenti di svago e di evasione che l'uomo della strada poteva permettersi. Quindi noi siamo pronti per accogliere i grandi artisti che arriveranno a Roma per questa 38esima edizione del Roma Jazz Festival. Tu ne hai guidate una ventina, credo. Sì, circa 20. La tua passione per la musica è lontana. Io mi ricordo che tu creasti un bellissimo jazz club, il San Luis Jazz Club qui a Roma, che oggi è una prestigiosa scuola di musica rinomata in tutto il mondo. Ma che cosa ti ha portato da architetto a vivere la musica anche da professionista? Beh, il jazz è stato sempre nella mia vita, è entrato per caso, ristrutturando un locale che forse non aveva molta storia e a cui subentrai per prendere la direzione, pur non sapendo nulla di jazz, e così ha determinato tutta la mia carriera e la mia vita. Ma non ho lasciato il lavoro di architetto, il jazz mi aiuta anche a fare l'architetto. Continui a farlo, tra l'altro sì. Tu sei richiestissimo come designer di barche a vela. Sì, esatto. E questo è il lavoro principale che fai da architetto, cioè non lavori con il mattone. No, preferisco lavorare sull'acqua. Mi sembra bello. Allora, Mario, quando inizierà il festival? Il festival ufficialmente all'Auditorium inizia il 14 di novembre, però prima di quella data abbiamo smosso la città, come si dice. Quindi avremo dei concerti al Teatro Torlonia, Villa Ada, dove faremo il jazz brunch alle 11 di mattina. Uh-huh. Faremo swing con i gruppi locali, che ce ne sono tantissimi e molto sì. bravi. E poi andremo anche in periferia in altri teatri come il Quarticciolo, Tor Bella Monaca. E dopodiché faremo sponsor di concerti che si terranno nei club di Roma. Quindi avete cercato di organizzare grandi concerti, ma anche di movimentare la vita notturna di Roma, sempre con il marchio Roma Jazz Festival. Sì, è così. Allora, il festival inizierà il 14 di novembre all'Auditorium Parco della Musica. Naturalmente abbiamo già detto che ci saranno delle cose che anticiperanno i main concerts, un formidabile duetto con Dave Holland e Kenny Barron al pianoforte, l'Auditorium Parco della Musica nella Sala Petrassi, per poi andare avanti con un programma intenso che annunceremo anche nel corso dei prossimi appuntamenti del nostro soundcheck. E per andare direttamente alla musica, eccolo qui che arriva a Roma, uno dei miei preferiti, Robert Glasper, non con i suoi Experiment, ma sarà presente all'Auditorium Parco della Musica in duetto con un altro eccellente pianista della nuova generazione, Jason Moran, sempre all'Auditorium Parco della Musica, Sala Petrassi, alle ore 21, Jason Moran e Robert Glasper, 17 novembre. Eccolo qui al soundcheck, Robert Glasper con i suoi Experiment e la partecipazione di Maisie Gray in I Don't Even Care, qui al soundcheck. Could be what you wanted from me, if I was running from me, if I wasn't honest. But see, when I was little, I made up a promise, or we'd rather a premise, and that just prefaced everything. Soundcheck, il suono della musica. E avrete riconosciuto sicuramente il tema di Watermelon Man di Herbie Hancock nella versione vocale della meravigliosa Didi Bridgewater, che sbarcherà a Roma in compagnia del giovane talentuoso trombettista Theo Crocker, del quale ha prodotto anche l'ultimo album. Arriveranno insieme a Roma all'Auditorium Parco della Musica per questa 38esima edizione del Roma Jazz Festival che il nostro direttore artistico Mario Ciampà ci sta presentando. Esattamente quando sarà all'Auditorium Didi Bridgewater? Il 25 novembre, credo, sì, giusto? Esatto, il 25 novembre. E viene con la formazione di Theo Crocker? Sì, ecco, non l'abbiamo fatto tante volte, però ci interessava sentire questo trombettista fenomenale. Sì, pensa che io l'ho conosciuto a Shanghai. Andai a Shanghai a fare i concerti proprio con il mio quintetto di allora, con Stefano Bollani, per rappresentare il jazz italiano all'Expo internazionale di Shanghai. Andammo in un bellissimo club e c'era Theo Crocker con la figlia di Didi Bridgewater. Evidentemente è stata proprio lei a creare la connection con la mamma, che è diventata anche la producer. Allora, questa edizione del Roma Jazz Festival vuole riportare il sorriso agli appassionati di musica che probabilmente vivono la crisi che seguiamo tutti i giorni qui su Radio 24, puntando anche sulla forza ritmica dello swing. Sì, la forza ritmica dello swing e sulla riscoperta del ballo. Io facendo questo lavoro e facendo questa ricerca sullo swing ho scoperto una grande comunità, non soltanto a Roma ma in tutta Italia, di swingers, uh-huh, o comunque di lindy hoppers, che si rifanno al ballo lindy hop. Sì, no? Tu sai che a Ancona d'estate c'è un festival dedicato proprio allo swing, no? Sì, sì, lo so, effettivamente anche in Svizzera c'è un altro festival dedicato allo swing. E quindi riporteremo anche così alla conoscenza di tanti altri che non sanno di questo fenomeno, il fenomeno del ballo swing. Anche attraverso il lavoro di giovani artisti che saranno presenti all'Auditorium Parco della Musica, e li annunceremo fra pochissimo. Torniamo allora ad ascoltare questo lavoro realizzato da Didi Bridgewater per il trombettista Theo Crocker, e questa è la loro versione di I Can't Help It, il brano di Stevie Wonder portato però al successo da Michael Jackson. Sentite cosa combinano questi due qui al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. And when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Pants for romance is not, 'cause it's too darn hot. Driving me crazy. E il 28 novembre arriverà il turno di Anthony Strong, uno dei nuovi nomi del jazz inglese, crooner della nuova generazione, praticamente segue il lavoro fatto molti anni prima di lui dal bravissimo organista Georgie Fame e poi da Jamie Callum. Anthony Strong arriva il 28 novembre e qui lo abbiamo apprezzato al soundcheck di Radio 24 con questo classico di Cole Porter intitolato Too Darn Hot, tratto dal nuovo album intitolato Stepping Out. Quindi Mario Ciampà, direttore artistico del festival, come si è andato a pescare il bravissimo Anthony Strong? Sono andato a Londra sul loro invito al Ronnie Scott a sentirlo qualche anno fa, poi è venuto a Roma credo l'anno scorso, ho avuto la riconferma che comunque è musicista estremamente valido, un ottimo cantante, c'ha un bellissimo feeling e secondo me segue la tradizione dei crooner inglesi. Abbiamo detto che questa 38esima edizione del Roma Jazz Festival punta sulla riscoperta dello swing e infatti il giorno dopo, il giorno dopo, arriva il 29 novembre The Sweet Life Society, che è una band italiana che coniuga lo swing con l'electropop. Sì, è un fenomeno che ha preso molto piede in Inghilterra e in Francia e che sta nascendo in Italia, ancora non ha avuto il suo grande sviluppo, è proprio per questo che noi vogliamo presentarli quasi in finale del festival. Ecco, sì, perché poi comunque durante questa 38esima edizione si può ascoltare di tutto, quindi non soltanto swing della tradizione, ma abbiamo meravigliosi musicisti italiani, ci sarà Enrico Rava, ci sarà Franco D'Andrea, ci sarà anche la partecipazione di un bravissimo cantautore italiano che è Pigi, giusto? Sì, è giusto. Allora, io direi di gustare una traccia tratta dal nuovo album di Sweet Life Society con la partecipazione della vocalist Anna Williams per questa versione electro swing pop di St. James Infirmary, un classico del jazz di tutti i tempi. Soundcheck, il suono della musica. Swing manouche del formidabile Birelli Lagrène con Gypsy Project, anche loro protagonisti al Roma Jazz Festival 38esima edizione il 27 novembre. Quindi grazie a Mario Ciampà per questa apparizione nel Groovemaster Studio, grazie per il lavoro che stai svolgendo per il jazz, saremo presenti all'Auditorium Parco della Musica e continueremo qui al Soundcheck ad annunciare i concerti, ce ne sono tanti, vi consiglio di visitare le pagine del sito ufficiale, ovvero romajazzfestival.it. Attraverso il sito sarà anche possibile avviare le procedure di prevendita, sì, via internet, quindi potrete acquistare i posti migliori, fatelo subito perché insomma il concerto e il festival mi sembra molto importante e molto ben organizzato quest'anno. Grazie. Ci sono anche due splendide big band. Sì. Ecco, una in apertura è una big band che ci riporta proprio all'era dello swing e a Glenn Miller, ovvero? Sì, la US Navy Force Ensemble. Sì. Sì, una grande big band proprio americana, sono marinai che propongono Glenn Miller, che tra l'altro è stato nella Marina degli Stati Uniti. Sì, è quello che ci premeva mettere in risalto, cioè 70 anni fa la liberazione dell'Italia e quindi dopo dell'Europa e la prima apparizione dei V-Disc, le band americane che suonavano nei club romani e facevano ballare le persone, e quindi questo parallelismo l'abbiamo voluto mettere in evidenza con questa presenza di questa orchestra americana. Quindi la formidabile US Naval Force Europe Jazz Ensemble il 15 novembre, per chiudere poi il festival con un'altra orchestra tutta italiana diretta da un meraviglioso arrangiatore musicista, un nostro amico, è stato anche lui ospite del nostro soundcheck per parlare proprio dell'arte dell'arrangiamento, il bravissimo Massimo Nunzi, che ha riunito da un po' di tempo un'orchestra operaia. Di che tipo di progetto stiamo parlando? Stiamo parlando di brani inediti di Bill Strayhorn e di Duke Ellington, quasi mai eseguiti, credo non eseguiti in Italia, che lui ha riarrangiato per questa orchestra splendida. Però sarà una produzione stile Broadway, nel senso che abbiamo invitato anche un coreografo ballerino molto famoso in Italia e all'estero, Vincenzo Fesi, che preparerà uno show con alcuni interventi di ballerini dappertutto, in tutta la Sala Sinopoli, da dove è possibile, per preparare questo show finale. Allora, non perdetevi il Roma Jazz Festival 38esima edizione all'Auditorium Parco della Musica dal 14 novembre al 30 novembre, chiusura con l'Orchestra Operaia. Visto che parliamo di big band e hai nominato Duke Ellington, io non potevo che fare scopa presentando agli amici di Radio 24 Duke Ellington e Count Basie insieme in questo brano scritto da Ellington e Billy Strayhorn, che si intitola BDB. Grazie a Mario Ciampà per la partecipazione, in bocca al lupo, buon festival. A tutti voi buona serata, ci risentiamo domani, domenica, con il soundcheck come sempre diviso in due parti, dalle 15.30 e poi la parte più jazz a partire dalle 19.15. A tutti voi buona serata da Gigi Telesforo e Mario Ciampà.